problema che comunque ci è caro, perché abbiamo già affrontato in passato, per esempio con Francesco Filippi, sul tema appunto dei crimini coloniali italiani. Questa volta abbiamo voluto affrontare, diciamo, da un altro punto di vista, quindi approfondendo, come ci piace fare, il tema della liberazione, la lotta di resistenza, andando a toccare delle tematiche magari particolari per suscitare anche un po' la curiosità della comunità, dei partecipanti, e quindi abbiamo voluto parlare del movimento di resistenza, non solo etiope, ma in generale tutti i movimenti che si sono sviluppati nei paesi, diciamo, colonizzati dagli stati europei. Poi ovviamente in particolare il focus sarà sull'Italia, e quindi, diciamo, abbiamo scelto di dedicare quello che è l'approfondimento culturale che accompagna sempre il calendario delle celebrazioni della liberazione a proprio questo tema, chiamandolo le resistenze altre, per aprire, diciamo, un mondo che è poco conosciuto, sia dal punto di vista, diciamo, di quello che gli italiani, i colonizzatori in generale, hanno fatto, che dal punto di vista, ovviamente, a maggior ragione, di come poi questi popoli hanno cercato di difendersi, o come hanno subito poi le aggressioni imperialiste e belliciste dei paesi europei. Chi ci sarà questa iniziativa? L'iniziativa si terrà venerdì 26 alle ore 21 presso la sala consiliare del comune di San Giorgio. Avrà alcuni relatori che abbiamo già individuato: sono Viviana Gravano, che è una storica curatrice di arte contemporanea, Giulia Greco, che è un'antropologa visuale, Nadia Mohamed Abdelhamid, che è un'insegnante e soprattutto una mediatrice culturale. Lei è di origine libica, quindi ci parlerà poi in particolare dell'esperienza del suo popolo, e Andrea Sestante, che è un fumettista che sta realizzando questa graphic novel chiamata Yekiti 12, che è, diciamo, il termine con cui il popolo etiope definisce la strage fatta dagli italiani all'indomani dell'attentato a Graziani, e quindi una settimana di stermini di massa convocati, disposti a Graziani, che hanno portato a migliaia e migliaia di morti. Quindi è una ferita aperta per il popolo etiope, ovviamente, ed è, diciamo, anche un po' un elemento di riferimento per ricordare questa fase storica per il popolo etiope. L'evento è infatti in collaborazione con la rete Yekiti 12 e con l'associazione Attitudes, che si occupano abitualmente appunto di queste tematiche. Questa iniziativa fa il paio con un'altra che riguarda invece una lapide che c'è a San Giorgio di Piano, che celebrava le imprese coloniali. Voi avete fatto un'operazione per scrivere un'altra storia, ecco, diciamo così. Sì, tecnicamente si potrebbe dire un'opera di risemantizzazione. Questa è una lapide, sono quelle lapide, no, poste come tante di questo tipo davanti ai comuni, dentro i comuni, dentro i municipi, che celebrano, non so, l'armistizio della Prima Guerra Mondiale, i caduti della Resistenza. Tra queste, nel nostro comune ce n'è anche una apposta durante il periodo fascista, che celebrava due caduti, ricordava due caduti nella guerra di Etiopia. Una lapide che però ovviamente ha una retorica colonialista, e che era già stato oggetto di una prima rivisitazione all'indomani della liberazione, con l'eliminazione proprio dei riferimenti più espliciti al regime fascista, ma che manteneva invece la retorica coloniale, quindi il riferimento alle gloriose imprese per la conquista, no, delle colonie, quindi con questa retorica che all'indomani della liberazione evidentemente non veniva ancora avvertita come possiamo avvertire oggi, o meno come dovremmo avvertire oggi, come assolutamente stonata e scorretta, e quindi appunto, pur intervenendo su quella lapide, era stata lasciata appunto scalpellata soltanto laddove c'erano termini come fascisticamente o come riferimento all'era fascista. E quindi, insomma, questa lapide, che io da ormai 10 anni sono assessore, quindi ogni volta che entro e esco dal comune vedo, era una ferita aperta fondamentalmente. Quindi dopo anni, insomma, siamo riusciti a portare a termine questa operazione grazie anche a un tavolo organizzato di riflessione, organizzato insieme agli ospiti che ho citato prima della conferenza, alcuni degli ospiti della conferenza di venerdì. Abbiamo individuato un testo proprio per spiegare il senso di questa lapide, come oggi dovrebbe essere invece reinterpretata. Questa lapide verrà presentata il 25 mattina, nel momento, diciamo, di celebrazione ufficiale, dei discorsi ufficiali, insomma, della liberazione, e poi appunto venerdì sera ne approfondiremo i contenuti, proprio perché parleremo di queste, esattamente di queste tematiche. Quindi, insomma, non è un'operazione di rimozione, siamo in epoche sensibili in cui si grida la cancel culture, ma viene apposto un'ulteriore, diciamo così, lapide che spiega il senso della prima. Certo, è assolutamente quello che molti studiosi, ricordo un bellissimo libro di Tommaso Montanari appena uscito da pochissimo, Le statue giuste, che moltissimi studiosi appunto suggeriscono, cioè non si tratta di rimuovere ma di spiegare quello che fa parte un po' come i nostri monumenti parlano, e quindi non rimuoverli ma spiegarli in modo che rimanga una traccia storica di quello che è stato, di quelle che sono le vicende, degli accadimenti, ma spiegandoli e, come dire, contestualizzandoli con una sensibilità che ovviamente allora non c'era, come dicevo prima, neanche dopo la liberazione, ma che oggi dovrebbe invece caratterizzare un po' quelli che sono i nostri valori.